Giorni fa Umberto Eco, dall'alto della sua rubrica sull'Espresso, si lamentava di un episodio a cui lui aveva fatto, insomma, in cui lui aveva fatto la parte della vittima e le comunicazioni di massa invece quella del carnefice. Intendiamoci, roba da poco, almeno all'apparenza. Eco aveva partecipato ad un dibattito a Roma su un tema che non ricordo, ma con qualcuno tuttavia che notoriamente dissentiva dalle sue opinioni. Da una parte è Eco stesso a testimoniare che, nonostante le posizioni contrastanti, il dibattito si è svolto secondo modalità che lui definisce cordiali ed educate. Dall'altra è il testo dell'articolo di un giornale che si è occupato della cosa. Testualmente il giornalista dice che il dibattito in questione si è attenuto a un codice di civiltà assai rigoroso. Che il giornalista al dibattito ci sia stato davvero e che dunque la sua testimonianza sia da considerarsi valida è involontariamente confermato dall'uso della parola codice, no? Perché è da 30 anni che Eco inzuppa i suoi discorsi con questa parola e a chi sta ad ascoltarlo non può che conseguenzialmente rimanere un po' appiccicata. Fin qui allora tutto bene. Il giornalista non miete vittime ed Eco non se ne lamenta. Quando si lamenta è invece quando torna in prima pagina dello stesso giornale. C'è una finestrella che preannuncia ed enfatizza l'articolo nell'interno, ma in questa finestrella, ahi noi, si parla di infuocato dibattito a Roma. Ma perché diavolo di un motivo, si domanda Eco, oggi i dibattiti debbono per forza essere sempre infuocati, anche se non lo sono affatto? La domanda vale una riflessione, ma estendendone la portata ben oltre i dibattiti e fino a prefigurare una qualche sorta di legge generale. Voglio dire, si tratta di un fenomeno in sicura espansione. Il 20 agosto ultimo scorso, per esempio, il Corriere della Sera ha titolato «Trovato tritolo a Messina». E il testo dell'articolo era il seguente, 20 agosto, e faccio notare. Il testo era il seguente: i servizi segreti hanno allertato carabinieri e polizia dopo aver scoperto che un ingente quantitativo di tritolo starebbe per sbarcare nell'isola via Messina, un'ipotesi inquietante. Erano tempi in cui non era ancora così ovvio che qualora i nostri servizi segreti trovino qualcosa è soltanto in merito al fatto che ce l'ha messo loro. E dunque fra l'ipotesi e il riscontro di un fatto avrebbe dovuto pur esserci ancora un minimo di differenza. Fatto è che l'andazzo è davvero generalizzato. Chi fa i titoli d'accordo, vabbè, non è poi chi fa l'articolo. Chi fa i titoli d'accordo si giocherebbe la mamma pur di invogliare a leggere l'articolo, ma un minimo di rapporto coerente fra quanto si legge e quanto titolato dovrebbe pure essere mantenuto. Invece la logica della cosiddetta libera concorrenza fra merci, la stessa logica che governa la circolazione delle notizie nel mondo, fa sì che il titolo costituisca l'esito di un gioco al rialzo. Laddove il valore di un articolo in termini di informazioni è 6, ecco, il titolo lo spaccia a 8. Prendere o lasciare. È come quando devi andare all'estero, no? Ed hai bisogno di moneta straniera. Guardi sul giornale e la moneta in questione, quella che ti occorre, vale tot. Corri in banca, corri e la paghi tot più tot. Mai né tot né mai tot meno tot. No, soltanto tot più tot. Paghi sempre qualcosina di più. Ecco, così è il titolo. Alla faccia dei valori di lealtà, onestà, democrazia e professionalità che ama tanto citare chi fa questo mestiere. Ovviamente, come ogni qualvolta qualcuno gioca a rialzo, c'è qualcun altro che ci smena. E a smenarci è il lettore. Sempre più educato all'imbecillità e dalle falsità strumentali, sempre meno autonomo e sempre più subordinato ad un potere che ne fa carne da cannone e, non accontentandosene, lo sbeffeggia. Visto allora che chi fa i titoli li fa così perché vorrebbe che tu leggessi anche l'articolo, sarebbe oltremodo indispensabile che tu, una volta che hai letto l'articolo e fatto 2 più 2, non comprassi più il giornale. Fra la stampa democratica e popolare, va detto, ci sono anche le debite eccezioni, eh? C'è chi, per esempio, usa del titolo per far cultura dove meno te l'aspetti, portando il bene del sapere dove magari per conto proprio non sarebbe mai arrivato. Deve essere il caso del settimanale Le Ore, protonotario della stampa pornografica d'Italia, che in copertina qualche tempo fa titolava «Aspettando Godot», facendo confrontare per la prima volta un pubblico inconsueto con l'immortale tragedia teatrale di Samuel Beckett.